Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda i mercati: deboli oggi in tutta Europa, Milano perde l'1,70%, Parigi l'1,20%, Francoforte l'1,30% e Londra lo 0,40%, l'America perde lo 0,24%, euro a quota 1,30% sul dollaro. C'è poi in borsa a Milano il caso Fiat dopo i rilievi Consob, meno 4,24%, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Popolare Emilia Romagna meno 3,20%, Intesa meno 3, A2A meno 2,90% come Exor, quindi la controllante è di Fiat. UbiBanca meno 2,80% come Unicredit e la Popolare di Milano il 2,50% lo perdono Pirelli, ma anche il Banco Popolare, ST Microelectronics e il Monte dei Paschi. Sul fronte opposto c'è pochissimo, o meglio, chi perde meno è Mediobanca e Finmeccanica, che perdono lo 0,15%. Ci occuperemo in apertura del piano tagli da un lato del governo, ma soprattutto di quello che sarà il documento sulla legge di stabilità. Il governo domani, infatti, attraverso il Consiglio dei Ministri, varerà la legge di stabilità, che dovrebbe mobilitare risorse tra i 10 e i 20 miliardi. Una mini manovra, 10 miliardi sono sicuri, perché sono 6 miliardi e mezzo di misure per evitare che l'IVA poi passi dal 21% attuale al 23%, e poi ci vogliono altri 2 miliardi e mezzo per i terremoti, 1 miliardo e mezzo per i premi di produttività e altri elementi di welfare, e si arriva a 10. Dopodiché il governo non ha escluso, lo ha fatto oggi il ministro Grilli, che la manovra possa essere più ampia per arrivare anche a una prima riduzione fiscale. Però oggi il ministro Grilli è sembrato tiepido, ha detto viene prima di tutto la riduzione dell'IVA e poi il resto. Parleremo di questo, dicevo, e poi però anche della vicenda Ilva, lo faremo nella seconda ora del programma, perché a questo punto la magistratura è intenzionata in ogni caso a chiudere la parte, diciamo, più inquinante, la parte a caldo dello stabilimento di Taranto. Resta una stima di 8 miliardi di danni, ma soprattutto il rischio fortissimo che una volta chiuso lo stabilimento l'IVA perda quote commesse e non rientri più in gioco. Lo dico questo al netto delle responsabilità della famiglia Riva, su cui sta indagando, e i Riva sono gli arresti domiciliari, la magistratura, e le inadempienze, cioè da quello che si capisce sembra chiaro che in questi anni le promesse fatte dai proprietari Riva non sono state mantenute quanto a riduzione delle emissioni nocive. Il punto adesso è, lo ripetiamo ogni volta, come mettere in sicurezza quella che è la salute degli abitanti di Taranto, in particolar modo di chi abita vicino all'Riva e dei lavoratori, senza arrivare a un danno economico di proporzioni enormi in un sostanzialmente periodo in cui aumenta la disoccupazione. Mi rendo conto che sia un crine molto labile quello tra, insomma, tutela della salute e esigenze del mondo produttivo e degli occupati dell'IVA, ma tant'è. La situazione in realtà non si è andata sbloccando, non è andata migliorando, è andata anzi irrigidendosi e peggiorando. Ne parleremo appunto più avanti parleremo anche della riforma Fornero sul lavoro. Domani, tra l'altro, su Sole 24 Ore esce un primo bilancio della riforma Fornero. Oggi qui a Sole 24 Ore un convegno a cui hanno partecipato gli ex ministri Treu e Sacconi, in particolar modo sulla norma sugli esodati. Ascolteremo alcune dichiarazioni dopo quanto è arrivato venerdì. Entro il 15, infatti, dovrebbe arrivare una norma che riguarderà 55.000 esodati, cioè quelli che hanno accettato di uscire dal lavoro con degli incentivi, con lo scivolo, col prepensionamento, e poi però, siccome la riforma del mercato del lavoro, la riforma delle pensioni, scusatemi, ha innalzato l'età per andare in pensione, loro si trovano in questo momento in una terra di nessuno, e cioè non hanno più il lavoro ma non hanno ancora diritto alla pensione. 349-238-6666 per i vostri sms. Abbiamo anche oggi notizie sulla crisi che gli altri non sentono, meglio sulle sprechi delle regioni, devo dire non così tante come nei giorni scorsi, ma ne parleremo rapidamente, però le altre notizie in breve. Ancora sui mercati però il petrolio è in calo, è a $88,50 al barile, hanno perso molto le quotazioni oggi, $1.35 al barile. E ancora invece avremo anche un tema che riguarda l'Eurogruppo, oggi infatti nel vertice in Lussemburgo dei ministri delle finanze dei 17 paesi europei, vi sarà il versamento, verrà staccato l'assegno, diciamo, per usare un linguaggio un po' forte, per versare i 32 miliardi del capitale del fondo Salva Stati ESM, che è il fondo che poi dovrà servire ad aiutare i paesi in difficoltà e sotto attacco sui loro debiti. Il fondo sarà in condizione di prestare 200 miliardi entro fine ottobre su una capacità totale di 500 miliardi. Intanto però Atene è blindata letteralmente dalle forze di polizia, perché domani arriverà Angela Merkel e ci sono, come imprevedibile, manifestazioni di protesta annunciate sia dai sindacati che dall'opposizione. Dicevamo della dichiarazione del Presidente del Consiglio Mario Monti, il quale ha detto: attenzione, c'è ancora da lavorare, bisogna mobilitare tutte le energie. Ha parlato a Parma, a margine, anzi a Rubiano, inaugurando il nuovo stabilimento della Barilla. Però, lo ripeto, lo affrontiamo subito in apertura. Da oggi la Camera inizia anche l'esame del disegno di legge bipartisan o bipartisan sugli esodati, che allarga le maglie dei possibili beneficiari con un costo di circa 5 miliardi. Al momento però non si capisce quale sia la copertura finanziaria, cioè dove verranno trovati questi soldi. La Banca d'Italia, avremo il rapporto banche e imprese. La raccolta sta andando bene, o meglio, i depositi bancari sono cresciuti del 3,5% su base annua, ma gli impieghi, quindi i prestiti delle banche alle imprese, sono diminuiti ad agosto del 2%. Allora, su questo fronte è chiaro che le imprese lamentano un'assenza del credito bancario, però le banche dicono: bisogna capire, traduco in maniera molto semplice, per quale motivo mi chiedi soldi, se è per spese correnti, per pagare gli stipendi o quant'altro, se è per investimenti, acquisizioni e piani futuri di sviluppo. Il dato comunque è inequivocabile: i depositi, quindi i soldi depositati in banca, sono tornati un po' a aumentare, la raccolta bancaria, gli impieghi invece continuano a calare. Volete sapere di Fiat? Oggi su alcuni giornali veniva anticipato che ci potrebbe essere un'indagine della Consob, quindi dell'autorità di vigilanza sulla borsa, sulla liquidità della Fiat. Perché? Perché in sostanza vi sarebbe un tesoretto fatto da 22 miliardi e mezzo di linee di credito e corporate bond e obbligazioni societarie, che secondo quanto oggi riportano alcuni quotidiani è finito sotto la lente della commissione di vigilanza della Consob. La Fiat non ha commentato nulla, ha detto di non essere al corrente di indagini Consob sulla sua liquidità. E adesso un nuovo appuntamento con una rubrica che, come dico sempre, vorremmo eliminare. No, non ce ne sono così tante come nei giorni scorsi, poi torneranno, però ci sono cose carine che oggi non riguardano le regioni, infatti secondo me oggi, ma usiamo sempre Rino Gaetano, scusatemi, oggi la voce non è il massimo. Non riguardano le regioni, riguardano altri organismi. Il dato di fondo è sempre il solito: con i fondi pubblici, con i soldi dei contribuenti o dei soldi dei contribuenti c'è poco rispetto. Una cosa ancora più inqualificabile, inaccettabile, vista la crisi che il paese e le famiglie stanno attraversando, sia sui redditi che chiaramente anche sui consumi. 349-238-6666 per i vostri SMS. Abbassare, putterecche più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, putterecche più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, putrecche più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, putrecche più. Parleremo anche dell'IMU sugli immobili della Chiesa. Il Consiglio di Stato infatti ha bloccato la decisione del governo, ma vi arriviamo tra un secondo. Vorrei invece parlare di quello che è successo a Milano, dove la Guardia di Finanza ha arrestato 4 persone nell'ambito di un'inchiesta per truffa e corruzione in relazione alle gare d'appalto per alcune case vacanza per anziani e bambini all'epoca della giunta Moratti. In carcere, tra gli altri, un funzionario dell'assessorato alla famiglia del comune e il segretario generale dell'Istituto per i Ciechi e commissario straordinario della Fondazione Pini, che rende il tutto ancora più sgradevole, per essere buoni. Il funzionario del comune avrebbe concesso finanziamenti sospetti per 6 milioni di euro. Il comune di Milano si costituirà parte civile nel processo, ma con il finanziamento erogato dal comune di Milano per un progetto artistico al centro dell'inchiesta è stata pagata anche una cena da 13.000 euro. Ora io capisco tutto, ma 13.000 euro. Particolarmente raffinata e costosa, dice il GIP di Milano, e vorrei anche vedere, organizzata per consolidare una rete di rapporti con diverse personalità del mondo imprenditoriale pubblico milanese, nonché con alcuni alti magistrati del circondario. Ma insomma, fare pagare la romana, no? Anche perché sono soldi pubblici. Nel frattempo la Guardia di Finanza è andata di nuovo nella sede della Regione Molise per acquisire documentazione relativa alle spese dei gruppi consiliari, sempre i gruppi consiliari sotto i riflettori, e ha fatto un blitz di circa 5 ore. Sono entrati alle 9 di mattina, sono usciti poco dopo le 14, hanno portato via un paio di faldoni pieni di documenti e vogliono capire come, quanto e come è stato utilizzato rispetto a quanto erogato ai gruppi del Consiglio regionale negli anni 2009, 2010 e 2011. E adesso però il nostro applauso va alla Federnuoto. Ora, qui c'è uno scontro tra il presidente Paolo Barelli e l'altro candidato Giorgio Quadri. A me dello scontro non me ne frega nulla. Faccio notare che non sarà colpa di Barelli. La federazione sportiva che più ha deluso ai Giochi Olimpici di Londra è stata quella del nuoto, e va bene, non sarà colpa del presidente. Però io vorrei capire perché poco prima delle Olimpiadi di Londra il presidente di Federnuoto Paolo Barelli, che è anche senatore del PDL, al ristorante Al Pescatore. Allora, questo è un ristorante che fa da mensa al Centro Federale del Nuoto Italiano ad Ostia, perché manca una mensa lì, e vabbè, ha in teoria prezzi modici tra i 12 e i 15 euro, non c'è un accordo, una convenzione con Federnuoto, e va benissimo. Ora, volete sapere quanto ha speso Federnuoto in 16 mesi, cioè in un anno, neanche un anno e mezzo, nonostante una convenzione con questo ristorante che va tra i 12 e i 15 euro? 228.000 euro al ristorante Pescatore, il che vorrebbe dire aver dato da mangiare a 19.000 atleti. C'è quasi 1200 atleti al mese. Il record arriva addirittura il 2 febbraio del 2012, quando si spendono 18.000 euro di pranzo per 11 tavoli, quindi 1473 atleti. Ora c'è un piccolo dettaglio: il ristorante tiene 400 posti. Se anche tutti avessero scelto la formula della mezza pensione, 25 euro per tre pasti, vorrebbe comunque dire quasi 700 atleti, e resta un mistero perché dove li fai sedere se sono 400 i posti. Ma non basta, perché il 2 novembre 2011 la Federnuoto ha pagato un altro assegno a questo ristorante, sempre convenzionato, per 18.840 euro di un pranzo o cena. Il problema anche qui è che vorrebbe dire, con quella convenzione, aver avuto a cena o a pranzo contemporaneamente 1.570 atleti stipati. Ma se tiene 400 posti, come hanno fatto a entrarci uno sopra l'altro? Hanno fatto i turni velocissimi. Non so, è incredibile. Quattro volte la capacità del ristorante. Il presidente Barrelli smentisce le accuse. Noi facciamo solo cose congrue e corrette. Noi le crediamo, ma non capiamo cosa ci sia di congruo e di corretto in queste cifre e in queste spese. E a lei l'applauso della nostra rubrica, che prende il nome anche dalla canzone di Rino Gaetano. Un applauso per il presidente Federnuoto. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Vabbè, e mentre noi continuiamo a scoperchiare utilizzo improprio, non so se improprio, ma comunque leggero, possiamo dire leggero, dei soldi pubblici, visto che anche la Federazione Italiana Nuoto viene pagata dai contribuenti, il governo domani con un consiglio dei ministri varerà la legge di stabilità, che appunto sarà una legge, una mini manovra finanziaria, almeno 10 miliardi, questo è certo, forse 20. I 10 miliardi serviranno appunto per 6 miliardi e mezzo per non aumentare l'IVA e non portarla dal 21 al 23%, poi 3 miliardi per i fondi per il sisma, ma anche spese indifferibili come il premio di produttività per le imprese e altre voci, e poi potrebbe in realtà aumentare, perché c'è tutto il pacchetto cosiddetto della delega fiscale. Cioè, in questo momento i tavoli aperti sono quelli di domani, dove il governo deve trovare i soldi per non aumentare l'IVA. Poi c'è quello che va chiuso entro il 18 ottobre tra sindacati e datori di lavoro. Oggi un incontro, e quindi Confindustria, Rete di Imprese per l'Italia, per arrivare a un aumento della produttività e un accordo che Monti vuole portare poi a Bruxelles. E poi il 10 ottobre invece approda la Camera la delega fiscale, dopo il via libera della Commissione Finanze. Il tutto ce lo riassume con la chiarezza che gli è propria Dino Pesole del Sole 24 Ore. Dino, buonasera. Buonasera Sebastiano. Eccomi. Allora, tu non vai a mangiare il pescatore anche tu, no? Mi raccomando. No, però insomma. Vai. No, perché poi adesso ragioneremo di un insieme di cose, però poi... Allora, andiamo con ordine. 10 miliardi mi sembrano certi come mini manovra, giusto? Sì, sono quelli che sono stati indicati nei giorni scorsi, certi nella loro entità, non certi per quel che riguarda il reperimento delle relative risorse, perché il governo è al lavoro in sede tecnica, perché il ministro Grilli in questo momento a Lussemburgo e tornerà questa notte, perché il Consiglio dei Ministri è domani alle 15, e sicuramente c'è l'intenzione di concentrare per gran parte l'intervento su nuovi tagli alla spesa corrente. Il problema è che appunto ancora non è stato definito nel dettaglio il menù, e penso che lo sarà domani, quindi si annuncia un Consiglio dei Ministri non brevissimo, anche perché è del tutto evidente che tagliare per 6,5 miliardi o qualcosa di assai vicino, se non saranno 6,5 saranno 5 miliardi la spesa pubblica in corso d'anno a questo momento dell'anno, non è per nulla facile, anche perché siamo vicini alle elezioni e, come è noto, le spinte dei partiti quando ci sono le elezioni vanno in tutt'altra direzione piuttosto che stringere i cordoni della borsa, come dire, e quindi è complicato, e infatti il governo sta cercando di mettere appunto i vari addendi di questa operazione. certamente una nuova tranche della cosiddetta spending review, cioè della razionalizzazione della spesa. La prima c'è stata a giugno. Sì, prego. No, il problema è che quella tranche di spending review di giugno fu per gran parte composta da tagli lineari, e qui appunto è la sfida, perché se si continua a fare come si è fatto negli ultimi anni, cioè tagli cosiddetti orizzontali a tutte le voci di spesa, non si va da nessuna parte. E quindi la cosa complessa è cercare di individuare all'interno dei singoli capitoli di bilancio quelle spese che si possono comprimere. E quindi non è facilissimo. Sì, allora diciamo che ci sono 10 miliardi che servono subito per evitare IVA, terremoto, danni, copertura dei danni del terremoto e quant'altro. Però poi c'è tutto un insieme di altre cose che stanno circolando e che vanno più verso la delega fiscale. Mi spiego. Allora, oggi il ministro Grilli ha frenato molto sulla delega fiscale, ha detto la nostra priorità è appunto non aumentare l'IVA ulteriormente. Però io vorrei anche fare il punto con te su, da un lato, gli esodati, perché oggi alla Camera è iniziato l'esame di un disegno di legge bipartisan che dovrebbe estendere la maglia dei possibili beneficiari. Il costo di 5 miliardi, non si conosce la copertura. E poi qualcosa in più potrebbe arrivare in realtà dalla rimodulazione degli incentivi, da quello che abbiamo capito, e anche dal piano Giavazzi, per esempio la revisione delle agevolazioni fiscali vale 200 miliardi, complessivamente potrebbe portare 3 miliardi, se ho capito, e il rapporto Giavazzi disbosca tra i 40 miliardi di euro di contributi. Cioè, voglio dire, se noi vogliamo avere anche un elemento anticiclico, cioè che vada contro la recessione, occorre ridurre un po' la pressione fiscale, ma il reperimento di queste risorse, o per il reperimento di queste risorse, basteranno i soldi che si potranno risparmiare con il rapporto Giavazzi e con i minor incentivi fiscali? Agevolazioni fiscali? Diciamo proprio di no, perché allora sul punto relativo al riordino degli incentivi alle imprese c'è un'intesa di massima del governo a mettervi mano. Il problema è che dalle ultimissime stime che abbiamo raccolto non si va oltre i 500-600 milioni. Per cosa? Attraverso il riordino degli incentivi. Al massimo si può arrivare a 1 miliardo. Queste sono le cifre che stanno circolando in questo momento. Non 3 miliardi quindi? No, i 3 miliardi potrebbero essere viceversa quelli che si possono raccogliere dall'altro capitolo, cioè il riordino delle agevolazioni fiscali, e qui siamo su un altro capitolo, ed è sostanzialmente quel complesso di sconti a cui facevi riferimento tu poc'anzi, che erodano gettito per 200 e passa miliardi. Allora, da questo punto di vista però c'è chi all'interno del governo obietta al Ministero dell'Economia che in realtà è pur sempre di aumento di tassazione si tratterebbe, perché se uno riordina le agevolazioni è comunque in qualche modo aumenti la tassazione. E dunque allora la contraddizione in termini sarebbe: si sostituisce l'IVA e per una parte la si sostituisce con un incremento della tassazione, questa volta sull'imposizione diretta. Dunque si sta ragionando, certamente sono tutti fronti aperti, questo è quello della delega. Attenzione però che sulla delega la pressione dei partiti non è tanto su questo aspetto e sulla parte prevalente della delega e poi il riordino del catasto, insomma questo poi è il punto qualificante, ma c'è una forte pressione da parte delle forze politiche perché si dia un segnale sul cosiddetto fondo taglia tasse. Su questo fondo se ne parla da aprile e il governo continua a dire che il fondo scatterà dal 2014, mentre invece molti nel PDL e anche nel PD vorrebbero anticiparlo al 2013. Questa è la partita, se non che si può anche mettere un fondo, ma poi se non ci sono le risorse come si abbassano le tasse? Punto interrogativo. Quindi, ripercorrendo per far capire a tutti, 6 miliardi e mezzo devono essere trovati per non aumentare l'IVA al 23%, altri 3 miliardi e mezzo se ne vanno tra fondi per i terremotati e altre cose inderogabili come per esempio i premi di produttività, e si arriva a 10 così. Poi, se tu devi reperire, vuoi fare una manovra, diciamo, di carattere fiscale, hai bisogno di altri 10 miliardi, ci dice, che però mancano all'appello perché dai risparmi del cosiddetto rapporto Giavazzi, quindi i contributi pubblici alle imprese, no? Gli incentivi alle imprese sono 40 miliardi. Squinzi, anche il presidente di Confindustria, ha anche fatto notare che di quei 40 miliardi ne arrivano solo 3 alle imprese. Lui ha detto: beh, a sto punto sì, levateceli tutti, tanto vanno ai grandi gruppi e spesso anche partecipati dallo Stato, piuttosto dateci l'equivalente in riduzione fiscale vera. Però al di là di questo, dal rapporto Giovazzi, i 40 miliardi, i risparmi su quei 40 miliardi potrebbero essere 300-400 milioni. E poi invece dalla revisione della giungla di agevolazioni fiscali, che valgono 200 miliardi, non arriveranno più di 3 miliardi. Ora, mettiamo anche che la somma invece che fare 3 miliardi e 4 faccia 4 miliardi, all'appello mancano 6 miliardi. Esatto. Al netto degli esodati. Al netto degli esodati e di eventuali altre spese che si dovessero verificare da qua alla fine dell'anno, perché poi non dimentichiamo che ci sarà il famoso rituale provvedimento di fine anno che è quasi una finanziaria, cioè mille proroghe che provvederà a rifinanziare quelle spese che comunque sono in via di esaurimento. Quindi di carne al fuoco ce n'è molta, risorse pochissime. La mia impressione è che il governo proverà ad incrementare la dote dei tagli alla spesa. C'è Bondi che ci sta lavorando, si parla di almeno 2-3 miliardi che andrebbero ad aggiungersi a quelli già varati a giugno per la sua parte, e poi dovrebbero intervenire ulteriori tagli sul fronte delle amministrazioni centrali e dunque ministeri, e poi ancora regioni. Si parla oggi di un possibile taglio al fondo sanitario per 1,5 miliardi, ma già c'è una sollevazione da parte di tutti e secondo me in parte anche giustificata. Dunque il lavoro in corso, come dire, sarà un pomeriggio, una serata, una nottata di lavoro tecnico. Domani si proveranno a tirare le fila dal punto di vista politico e poi vediamo nel pomeriggio che legge di stabilità uscirà. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare ai mercati finanziari, restiamo in tema di conti pubblici, diciamo così, perché abbiamo visto qual è l'intenzione del governo sul Consiglio dei Ministri di domani: 10 miliardi più forse altri 10 miliardi, se si vuole iniziare a ragionare di delega fiscale, di riduzione della pressione fiscale. Però c'è un altro fronte tutto europeo che oggi ha conosciuto un momento importante, e mi riferisco al fronte del fondo salva stati ISM. Perché? Perché oggi a Lussemburgo i ministri delle finanze si sono incontrati per non staccare il primo assegno, io ho detto in maniera un po' colorita, ma per dare la prima parte del finanziamento di un fondo che, quando sarà a regime, avrà 500 miliardi di euro di disponibilità. Oggi diventa comunque operativo il fondo, perché è presieduto dal presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker e ha avuto il primo, diciamo, assaggio, ossia 35 miliardi di euro. Se non ho visto male, 349-238-6666 per i vostri sms. L'ESM segna un momento storico nel processo di modellamento del futuro dell'Unione Monetaria Europea. Ora la zona euro ha a disposizione un sistema permanente ed efficace di protezione. Si tratta di una componente assolutamente cruciale nella nostra strategia globale per assicurare stabilità finanziaria all'area euro. L'introduzione dell'ESM ha colmato il vuoto nell'architettura istituzionale dell'Eurozona e l'ESM verrà certamente considerato un elemento rassicurante sia all'interno che al di fuori dell'Unione Monetaria. Voglio ricordare che l'ESM non è uno strumento fine a se stesso, ma è parte di un piano più ampio per ridisegnare la governance economica nell'area euro. La sorveglianza economica e dei conti pubblici nella zona euro è stata rafforzata con l'adozione del pacchetto chiamato Six Package, entrato in vigore a fine 2011. Un ulteriore rafforzamento avverrà con l'adozione del cosiddetto Two-Pack, che verrà discusso dal Parlamento europeo e che ci aspettiamo venga presto adottato. E devo dire che oggi anche da Berlino è arrivato un plauso a questo fondo, una buona giornata per l'Europa. Il commissario degli affari economici e monetari Olli Rehn ha detto: sono meno pessimista oggi che a primavera, ma ci colleghiamo con chi ha seguito la firma da Lussemburgo e quindi con il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano, buonasera. Buonasera. Beda, sentiamo leggermente male la linea. Allora, oggi vertice per far partire il fondo di salvataggio e in attesa che domani... stasera Eurogruppo, domani vertice Ecofin. L'accoglienza, vorrei un tuo primo commento di questo fondo, mi sembra che sia stata più che buona. Cioè, sì, qualcuno in Germania ha protestato, ma insomma la linea tedesca è anche di dire insomma, una bella giornata per l'Europa. Ma devo dire che questo fondo nasce dopo un lungo processo di ratifiche nazionali che è stato particolarmente difficile in alcuni paesi, in particolare la Germania, perché la Germania ha dovuto aspettare prima del via libero definitivo una sentenza della Corte Costituzionale tedesca che finalmente a metà settembre ha dato il suo benestare. L'istituzione è un'istituzione interessante e particolare perché è un'istituzione della zona euro, non è un'istituzione dell'Unione Europea. A differenza per esempio della Banca Centrale Europea, molti pensano che la BCE sia un'istituzione della zona euro, in realtà anch'essa è un'istituzione dell'Unione Europea e tra i suoi azionisti ci sono i 27 paesi dell'Unione. Quindi questa nuova istituzione rappresenta per certi aspetti un tassello importante nell'integrazione, nel processo di integrazione dell'Unione Monetaria. Oggi nasce come fondo monetario europeo, è una specie di grande fondo dotato a regime di un capitale di 80 miliardi di euro che attraverso emissioni obbligazionarie potrà avere fino a 500 miliardi di euro a disposizione e questi soldi saranno utilizzati per aiutare i paesi in crisi. Evidentemente questa istituzione può cambiare pelle nei prossimi anni, a seconda di come l'integrazione della zona euro procederà. Si parla addirittura della possibilità che questa istituzione diventi un'agenzia del debito, per esempio, chiamata a gestire i vari debiti nazionali. Addirittura potrebbe diventare l'embrione di un tesoro europeo. Quindi in questo modo, in questo senso, la nascita di questa istituzione, bene o male, rappresenta un tassello politico importante. E fai bene a far notare che non è una cosa di tutta l'Europa. Abbiamo visto le tensioni britanniche sul budget europeo, ma è una cosa solo dei paesi dell'area euro. C'è certo una componente dell'area euro più intransigente, Germania, Finlandia, Olanda dicono che sostanzialmente questo fondo non potrà ricapitalizzare le banche già in difficoltà prima della nascita del fondo, però invece secondo il vertice di giugno il fondo Savasli dovrebbe essere messo nelle condizioni di ricapitalizzare anche direttamente le banche una volta stabilita la supervisione unica bancaria. L'agenzia di rating Fitch ha detto che il fondo riceverà comunque la AAA e staremo a vedere poi quale sarà l'effettivo funzionamento del fondo. Domani invece l'oggetto, stasera e domani, quindi Eurogruppo, Ecofin, riguarderà soprattutto la Spagna, Beda? Ma si parlerà di Spagna senz'altro oggi perché il ministro delle finanze Luis de Guindos presenterà le ultime misure approvate dal governo spagnolo nelle scorse settimane, presenterà queste misure davanti ai suoi colleghi dell'Eurogruppo. Non ci si aspettano decisioni. è da quel punto di vista lì un eurogruppo abbastanza interlocutorio. Forse più interessante potrebbe essere la riunione dell'Ecofin di domani. L'Ecofin raggruppa i ministri finanziari di tutta l'Unione Europea e in agenda c'è la possibilità di introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. I paesi hanno deciso di perseguire una cooperazione rafforzata perché non si è trovato un accordo tra i 27 e quindi si sta cercando di raccogliere il consenso di almeno 9 paesi per adottare questa nuova tassa. È un argomento che interessa direttamente l'Italia perché l'Italia potrebbe essere in realtà il nono paese. Per ora l'Italia non ha preso una decisione ufficiale. Sappiamo che il governo tentenna perché crede che questa tassa dovrebbe essere adottata da tutti i paesi dell'Unione Europea e non solo da un piccolo gruppo, ma per ora non c'è decisione ufficiale, ma potrebbe esserci domani nel corso della riunione. E vedremo appunto se arriverà anche ufficialmente questa decisione. Grazie intanto a Beda Romano. Io vorrei passare direttamente dai temi europei e dal fondo anche Salva Stati. Vedo che molti dicono, ma sarà un cavallo di Troia per aumentare. No, attenzione, è per ora il meccanismo, assieme alla decisione di Mario Draghi, che ha più tranquillizzato i mercati. È ovvio che 700 miliardi dovesse essere parte di un attacco alla Spagna e soprattutto all'Italia non basteranno, ma non guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Fino a maggio, aprile, non eravamo nemmeno convinti che si sarebbe arrivati alla nascita di questo fondo. Cioè, ricordo che l'incontro fu 21 giugno e poi inizio luglio, quando la Germania finalmente tolse l'ostacolo principale. Comunque, adesso la borsa. Borsa, dicevamo, oggi è negativa per quello che riguarda Milano, ma anche gli altri mercati. Meno 2% alla fine Milano, meno 1,50 Parigi, meno 1,50 anche Francoforte, meno 0,50 Londra e l'America meno 0,30%. Euro quota 1,2971. Alla fine c'è un titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione che ha chiuso in positivo, è Finmeccanica, più 0,34. Pesante però Fiat, meno 4,16%. E anche le banche sono negative. Delle banche parliamo dopo, però intanto Livia Zancaner, Radio Coro, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Parliamo di Fiat. C'è oggi su alcuni giornali il dubbio, o l'indiscrezione, che la Consob starebbe indagando sulla liquidità di Fiat, ma su che cosa? Allora, in realtà non vi sono i dettagli, bisogna ricordare che la di Fiat Sergio Marchionne ha spiegato più volte che parte della liquidità pari a 22,7 miliardi di euro al 30 giugno 2012 di Fiat è destinata al completamento dell'acquisizione dell'americana Chrysler, di cui al momento il Lingotto detiene il 58,5%. In particolare questa liquidità è costituita da linee di credito e corporate bond e, secondo indiscrezioni stampa, appunto la Consob starebbe in realtà valutando la reale consistenza di questa liquidità, perché se questa liquidità non ammontasse in effetti a 21,7 miliardi, allora i piani di Fiat potrebbero essere, diciamo così, scombinati. Il Lingotto oggi però ha replicato ai rumor, alle indiscrezioni stampa. La Fiat ha spiegato che la società riceve abitualmente richieste di informazioni dalla Consob e che qualsiasi insinuazione sulla mancanza di liquidità deve essere considerata falsa. Quindi in sostanza le indiscrezioni sono state considerate così, non veritiere dal Lingotto. Bisognerà quindi vedere nei prossimi giorni se vi saranno mosse da parte della Commissione o se in realtà il discorso finirà qui. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Stavamo concludendo, anzi eravamo a metà del guado, l'approfondimento sui mercati dopo la vicenda Fiat e i dubbi della Consob sulla liquidità del gruppo. Il titolo ha perso il 4,16%, è il peggiore oggi tra quelle a maggiore capitalizzazione, e anche Exor, la finanziaria di controllo, ha perso il 3,21%. Di nuovo deboli invece tutte le banche: Popolare Emilia Romagna meno 3,80, Ubibank meno 3,20, come Intesa San Paolo, il 3,12 lo perde Banco Popolare, ma anche Unicredit, il 3% è il calo della Popolare di Milano, e A2A perde il 3%, ma non c'entra nulla con le banche. Allora, Livia Zancaner, in realtà dopo quello che abbiamo raccontato sulla partenza del Fondo Salva Stati, oggi la prima tranche, la firma dei vari paesi, ci si poteva anche attendere delle banche in crescita e non in calo. Sì, diciamo che oggi è stata una giornata vissuta all'insegna delle vendite come prese di profitto rispetto al balzo della scorsa settimana. Ricordiamo che la scorsa settimana il FTSE MIB ha guadagnato oltre il 5% e con l'indice hanno guadagnato le banche, su cui oggi quindi sono scattate le vendite. Ricordiamo anche che oggi lo spread è tornato a salire, quota intorno a o poco sopra i 360 punti base, di questo quindi risentono le banche, ma in realtà non ci sono state notizie particolari, è in calo tutto il comparto bancario europeo, quindi appunto si tratta di vendite come prese di beneficio. E A2A, che citavo, invece cala per un possibile taglio del dividendo, se ho ben capito, sì, cioè degli utili che vengono distribuiti agli azionisti. Sì, infatti gli esperti si aspettano una politica del dividendo più conservativa per A2A. Ricordiamo che sabato in un'intervista il presidente del Consiglio di sorveglianza Pippo Arancia ha dichiarato che le attuali difficoltà del mercato elettrico, la necessità di investire per la crescita, appunto non consentono di distribuire gran parte degli utili generati. Questo significa appunto un possibile taglio del dividendo. Le ultime indicazioni indicavano un payout al 60%, le stime degli analisti sono per un payout intorno al 40% circa. E questo per quello che riguarda A2A. Poi ci sono titoli minori, ma insomma Finmeccanica più 0,34, sempre Ansaldo Energia, Azimut invariata. Ma tra titoli ancora minori, oggi spicca Marcolin più 6,70%, produce occhiali, ma ci sono voci di un possibile passaggio di proprietà. Sì, infatti dopo le voci la società questa mattina ha confermato le trattative in corso con il fondo PAI per l'eventuale cessione di una partecipazione di controllo nella società. Ricordiamo che il gruppo quotato in borsa è controllato al 28% dalla famiglia Marcolin e al 40% dai fratelli della Valle. Bisognerà vedere quindi come si concretizzeranno queste trattative nei prossimi giorni. Ancora tra i migliori e peggiori cito Ambro Mobiliare più 16,40, Screen Service più 9,26, IKF più 7,94%, tra i peggiori invece Ross meno 8, Unione Alberghi Italiani meno 6% e Acea meno 4,21%, e poi c'è la Fiat di cui parlavamo. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi invece adesso torniamo sui temi relativi all'Italia, e da un lato sull'incontro che vi sarà mercoledì tra le imprese e i sindacati, ma anche su quello che dovrebbe arrivare entro il 18, se abbiamo ben capito, in tema di esodati. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultimi aggiornamenti, infatti i leader delle imprese, quindi Rete Imprese per Italia, Confindustria, Confagricoltura e i sindacati si incontreranno mercoledì sera per tentare di chiudere l'accordo chiesto dal governo. Il governo ha detto fate voi, ma fate un accordo per aumentare la produttività. L'incontro sarà alle 20, se si è ben capito, nella sede di Confindustria. E in tema di diciamo lavoro e produttività, oggi il ministro Fornero ha detto nel futuro il lavoro verrà sempre meno dal finanziamento pubblico, è successo nel passato ma questa strada non è più percorribile, e ha anche aggiunto attenzione, la riforma del lavoro che abbiamo fatto non è contro le imprese, l'obiettivo è dare maggiore stabilizzazione e mettere dei paletti ad un uso un po' spregiudicato della flessibilità da parte delle imprese. E ha detto però anche il ministro Fornero: sono sempre pronto a discutere con il presidente Confindustria Squinzi sulla riforma. Il quale presidente Confindustria Squinzi oggi ha ricordato come si stia lavorando con, tra Confindustria, ABI, Banche Italiane, Cooperative, Rete Imprese per Italia, per arrivare poi a una proposta per l'incontro con i sindacati, appunto mercoledì, dopodomani. Quinti ha anche confermato che Confindustria è pronta a rinunciare a tutti gli incentivi, perché a fronte dei 34 miliardi di euro spesi dallo Stato per gli incentivi alle imprese manifatturiere, in Confindustria ne arrivano 3 miliardi e mezzo, quindi un decimo, e ha detto Squinzi: possiamo tranquillamente rinunciare se avremo una riduzione consistente del carico delle imposte sulle imprese. E poi c'è l'esame, come ricordavamo, degli esodati, cioè di chi si è trovato per colpa della riforma delle pensioni che ha innalzato l'età pensionabile, si è trovato senza lavoro e senza pensione. Avevano infatti accettato i cosiddetti scivoli aziendali, il prepensionamento, l'incentivo ad andarsene prima la riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni ha alzato l'età pensionabile e uno si è ritrovato in una terra di nessuno, senza lavoro e senza pensione. Allora, il ministro Fornero ha detto: attenzione, la stabilità dei conti non va compromessa, servono 5 miliardi per allargare le maglie dei possibili beneficiari dell'iniziativa sugli esodati, e non si capisce ancora dove potrebbero essere trovati. Oggi se ne è parlato qui a Sole 24 Ore, a un convegno sul mercato del lavoro. La nostra Anna Marino ha raggiunto, Valentina Furlanetto, scusatemi, ha raggiunto l'ex ministro, attualmente senatore del PDL, Maurizio Sacconi, proprio sul tema degli esodati. Il problema degli esodati è la controprova della rigidità eccessiva che probabilmente si è prodotta. Penso a donne prossime ai 60 anni che improvvisamente hanno scoperto di avere di fronte a sé 7 anni in più di lavoro, o penso a lavoratori anche maschi che analogamente hanno visto improvvisamente spostarsi, ma già in età adulta, non il momento dell'età di pensione, nonostante vi sia la propensione in molte imprese a ridurre soprattutto l'occupazione anziana. Credo che alcuni elementi di flessibilità responsabile possano essere introdotti nel sistema, tali da mantenere la sua sostenibilità finanziaria. Quindi c'è un problema più generale, non riconducibile soltanto ai cosiddetti esodati, che pure meritano la protezione quando sono persone che in buona fede hanno accettato accordi sulla base di una disciplina previdenziale che è cambiata. Quindi sostenete questo disegno di legge? Sì, si tratta poi di entrare nel merito, perché sappiamo anche, conosciamo anche i vincoli di finanza pubblica. Appunto, si riuscirà a trovare una copertura? È il governo che ci deve indicare quale sia il punto di incontro tra le due esigenze, quelle di stabilità e quelle di doverosa protezione sociale. E l'ex ministro Tiziano Treu, attualmente senatore del PD, sempre al convegno di questa mattina Sole 24 Ore, sempre al microfono della nostra Valentina Furlanetto e sempre sul tema degli esodati. Non credo che sia possibile, realistico, immaginare un percorso del genere. È chiaro che si dovrà salvare anzitutto quel tipo di persone che non ancora sono garantite, ma nell'immediato, cioè noi pensiamo che dentro questo discorso bisogna dare la priorità a chi ha l'anno prossimo, magari anche l'inizio del 2014, la perdita del lavoro e non la garanzia di pensione. Quindi una completare l'opera che è già stata fatta, perché 120.000 sono già stati, come dire, salvaguardati. Ce ne sono ancora di fuori, per esempio persone che hanno fatto la prosecuzione volontaria ma che è stata interrotta, accordi fatti non in sede governativa, e queste situazioni vanno salvate. Ma per un po' di realismo e anche per contenere i costi, cominciamo a salvare quelli che sono a rischio immediato, quindi anno prossimo, massimo inizio 2014. Nel 2015-2016, se ci saranno situazioni ancora critiche, vedremo, e magari si potrà vedere di incentivare la loro occupazione, perché un sessantenne può anche trovare occupazione, non è mica detto che debba andare in pensione. E se proprio qualcuno allora resterà fuori, si troveranno allora i rimedi, per esempio degli ammortizzatori specifici. Ma credo che insomma la cosa si dovrà limitare a salvare e a salvaguardare le persone a rischio immediato e quindi anche con minori costi. Ecco, visto che però non ci sono solo gli esodati, di cui abbiamo il massimo rispetto, ci mancherebbe, è stato uno scivolone del governo, l'abbiamo detto più volte, e del ministro Fornero fare una riforma senza pensare a questo piccolo particolare, però non ci sono anche solo gli esodati, ci sono anche gli imprenditori disperati. Ricorderete l'iniziativa Disperati Mai che Radio 24 fece? Le lettere di alcune delle migliaia di lettere che abbiamo ricevuto di imprenditori in difficoltà hanno dato origine a dei cortometraggi, quindi di piccoli film, in collaborazione con il Festival delle Lettere e il London Short Film Festival. Li presenteremo in anteprima qui al Sole 24 Ore, Sala Collina, alle 18.30 il prossimo 11 ottobre, quindi venite numerosi, come si dice in questi casi. Sono le lettere di Disperati Mai che diventano un film, il sottoscritto, il direttore della radio, Oscar Giannino, insomma una giornata dedicata all'attenzione che ha suscitato un'iniziativa, devo dire iniziativa che non avremmo mai voluto prendere, ma tant'è. Ultimo tema, dopo il traffico, mi riferisco all'Ilva di Taranto, ci dovrebbe essere stata la conferenza stampa dell'Ilva, però vi do anche un aggiornamento sulla vicenda di Fassino, ossia del sindaco di Torino, Piero Fassino, il quale ha chiesto al direttore generale della città di Torino, Cesare Vacciago, di approfondire l'intera materia. Che cosa è successo? Anna Martina, che all'epoca dirigeva il settore comunicazione del comune di Torino, avrebbe affidato un incarico al figlio. Ora in questo è emerso un profilo di natura soggettiva, ha detto Fassino. Il codice di comportamento che regola questa attività prevede che il dipendente debba astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni che possono coinvolgere interessi propri dei suoi parenti entro il quarto grado. Dicevamo dell'Ilva di Taranto, la situazione si sta complicando. Sabato scorso l'ultimatum della procura, l'Ilva ha 5 giorni di tempo per avviare il lungo processo di spegnimento degli impianti. Se entro venerdì non si avvierà il procedimento per fermare la produzione, i custodi agiranno in proprio. E questo arriva dopo che lo scorso 26 settembre i giudici avevano rigettato il piano di risanamento presentato dall'azienda. Il ministro Clini all'ambiente ieri ha detto: attenzione, è impossibile spegnere l'Ilva in 5 giorni. L'autorizzazione integrata ambientale sarà pronta la settimana prossima, ho fiducia nella legge. E però oggi conferenza stampa anche del direttore dello stabilimento. 349-238-6666 per i vostri SMS. Però anche una risposta a chi scrive al 349-238-6666. No, non è che i film Disperati Mai realizzati con le lettere, i cortometraggi realizzati con le lettere degli imprenditori disperati che abbiamo letto in questi mesi le abbiamo pagate noi, no, un'attività privata che partecipa poi a un festival. Vabbè, comunque l'appuntamento, ripeto, è qui al Sole 24 Ore. Iniziativa Disperati Mai, verranno proiettati in anteprima questi cortometraggi, ore 18.30 il prossimo 11 ottobre qui in via Monterosa 91 a Milano. Adesso però ci colleghiamo con Domenico Palmiotti, in via corrispondente del Sole 24 Ore da Taranto. Domenico, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera. Cosa ha detto il direttore dello stabilimento dell'Ilva, Adolfo Buffo? Allora, Adolfo Buffo ha detto: io non rispondo alla procura. chiusura, non lo faccio nella conferenza stampa, però vi dico che tutte le prescrizioni che ci hanno chiesto i custodi noi le stiamo rispettando. Buffo è venuto alla conferenza stampa esibendo anche gli ordini di acquisto o gli ordini fatti alle imprese perché effettuino i lavori di messa a norma della fabbrica. Ha poi dato delle notizie praticamente per l'altoforno 1, che è uno degli impianti che dovrà essere sottoposto a fermata. L'altoforno 1, bene, sarà fermato, sarà spento entro il 1° dicembre, si stanno facendo tutte le operazioni tecniche preliminari, e così anche per quanto riguarda l'altoforno 5 è stata affidata alla società tedesca Paul Wurth uno studio di fattibilità sullo spegnimento degli impianti, e questo studio sarà pronto fra 8 mesi. E alla domanda quindi chi ha ragione, l'Ilva o che dice che di fare le cose che hanno chiesto i custodi, oppure i custodi che lamentano una inadempienza dell'Ilva, appunto Buffo ha replicato dicendo: io vi rispondo con le carte, con le cose che stiamo facendo, con le iniziative che abbiamo messo in pista. E così anche per quanto riguarda il parco minerali, i custodi ci avevano chiesto di abbassare i cumuli e di ridurre la quantità di carbon coke minerale, noi lo abbiamo fatto. Buffo ha anche citato le date, su questi punti è stato molto preciso. Quindi il quadro che emerge, secondo quello che dice Adolfo Buffo, è che l'azienda sta rispettando gli impegni, sta rispettando le prescrizioni della procura. E poi è stato chiesto a Buffo: ma fra 5 giorni, se dovessero venire i tecnici esterni della magistratura, dice, i tecnici, se autorizzati, possono entrare nello stabilimento e si renderanno conto che noi stiamo facendo queste cose che ci hanno chiesto di fare. Poi Buffo ha detto, ha ribadito un concetto: l'Ilva vuole rimanere a Taranto, vuole investire a Taranto. Dunque, però adesso, al di là del fatto che il direttore generale dica noi abbiamo fatto e stiamo procedendo come ci ha richiesto dai custodi, vediamo di capire, dando per scontato che lui dica la verità, cerchiamo di capire le tappe. Adesso, entro dicembre sarà spento l'altoforno 1, giusto? Sì, sì, certo. E l'altoforno 5? L'altoforno 5, l'attività preliminare si concluderà nell'arco di 8 mesi, nell'arco di otto settimane. Nell'arco di 8 settimane. Quindi, cioè, per far capire a tutti, cioè, i due altoforni saranno chiusi a dicembre, non funzioneranno più, giusto? Funzionerà l'altoforno 1, non funzionerà più, l'altoforno 5 successivamente. Verrà sia spento. L'altoforno 1 che l'altoforno 5 verranno ricostruiti, perché l'azienda ha detto: noi non vogliamo soltanto spegnere, ma vogliamo anche ricostruire. Sì, i tempi, tutto questo? Non è stato dettagliato il tempo dell'altoforno 5, è stato soltanto dettagliato il tempo. No, dico, tra quando gli spengono, che ci vogliono settimane, li ricostruiscono e li riaccendono, abbiamo dei tempi, cioè, più che altro per gli operai dell'Ilva, lo dico, non per la famiglia Riva, che è sotto inchiesta per non aver fatto in questi anni quello che aveva promesso. Prego. Saranno tempi lunghi, non sono stati ancora quantificati i tempi di ricostruzione, però diciamo un primo punto posto, evidenziato nella conferenza stampa, è che l'altoforno 1 sarà fermato, sarà spento dal 1° dicembre. Poi entro alcuni mesi arriverà anche lo studio di fattibilità di copertura dei parchi minerali, che è l'altra cosa che i custodi l'avevano chiesto. Quello che emerge appunto dalla conferenza stampa è che l'Ilva asserisce di avere sempre adempiuto le richieste. Questo l'ho capito, ma quando è che l'Ilva potrà tornare a regime a produrre, secondo te, Domenico? Questo non è ancora prevedibile, questo non si può, perché l'Ilva potrà tornare a produrre soltanto quando le prescrizioni dell'AIA saranno adempiute. L'AIA dovrà essere licenziata, se tutto va bene, il 17 ottobre, perché il grosso degli interventi di risanamento e di bonifica, di adeguamento delle tecnologie, è lì nell'AIA. E questo, come dice anche il ministro Clini, richiederà un bel po' di tempo. Grazie Domenico Palmiotti, in collegamento con noi da Taranto. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Fatemi fare ancora un appello: il prossimo 11 ottobre 18:30 qui in Sala Collina, in via Monterosa 91 a Milano, la giornata delle lettere di Disperati Mai, che diventano un film. L'accesso è pubblico, è libero, lo dico a chi sta scrivendo, come si dice in questi casi, salvo e fino a esaurimento dei posti. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Berigioni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.